maschile e che anche con il più razionale allenamento possono essere solo attenuati. In secondo luogo, il godimento fisico che vi trae tende allo zero. In terzo luogo, ossessionato dal pensiero di come se la cava, cerca di realizzare una prestazione da primato, di fare un buon lavoro, senza curarsi di essere in sintonia con la sua compagna. Definire l'uomo una bestia è adularlo. Il maschio è una macchina, un vibratore ambulante. Spesso si dice che gli uomini usano le donne, ma a quale scopo? Non certo per il piacere. Malgrado sia roso da sensi di colpa, da vergogna, da paura e da insicurezze, malgrado sia capace di trarre dalla scopata, se gli va bene, solo una miserabile sensazione fisica, il maschio è tuttavia ossessionato da questo pensiero. È disposto ad attraversare un mare di merda, a passare a guado un miglio di vomito immerso fino al naso, se sa che dall'altra parte lo attende una fica disponibile. È capace di scopare una donna che disprezza, una qualsiasi maggiera sdentata, ed è persino disposto a pagare per farlo. Perché? Non certo per scaricare la tensione fisica, per questo basterebbe masturbarsi, e neppure per soddisfare il suo ego. Come spiegare in tal caso il fatto che scopi bambini e cadaveri? Totalmente egocentrico, incapace di comunicazione, di trasporto, di identificazione con gli altri, pervaso da una sessualità diffusa e dilagante, il maschio è psichicamente passivo. E poiché detesta la sua passività, la proietta sulle donne, definisce il maschio come attivo, e poi si mette all'opera per dimostrare di esserlo, dimostrare di essere un uomo. Il suo principale argomento a riprova è la scopata. Il grand'uomo col gran cazzo che si cucca un gran bel pezzo. E poiché si tratta di dimostrare il falso, deve ripetere la dimostrazione all'infinito. Scopare è allora un tentativo disperato e coatto di dimostrare di non essere passivo, di non essere donna. Ma egli è passivo e vuole essere donna. Essendo una femmina incompleta, il maschio trascorre la vita cercando di completarsi, di diventare femmina. Ecco perché è sempre alla ricerca della femmina e cerca di fraternizzare, di fondersi e di vivere attraverso di lei. Ecco perché rivendica a sé tutte le qualità femminili: forza e indipendenza emotiva, energia, dinamismo, risolutezza, sangue freddo, obiettività, coraggio, grinta, integrità, vitalità, intensità di carattere, profondità, sensualità. E proietta sulle donne tutte le caratteristiche maschili: vanità, frivolezza, superficialità, debolezza e così via. Bisogna però ammettere che in un settore il maschio ha raggiunto una evidente superiorità sulle donne, e cioè in quello delle pubbliche relazioni. Ha conseguito un brillante successo nel convincere milioni di donne che gli uomini sono donne e le donne uomini. La pretesa dei maschi che le donne si realizzino solo nella maternità e nella sessualità riflette ciò che essi desidererebbero per se stessi se fossero femmine. Detto in altri termini, le donne non hanno invidia del pene, sono gli uomini ad invidiare la fica. Il maschio non conosce lo stato lato positivo della felicità. Cioè l'unica cosa che giustifichi l'esistenza. E nel migliore dei casi è rilassato, tranquillo, indifferente. Ma questa condizione dura un istante, perché subito subentra lo stato negativo della norma. Il maschio è dunque condannato ad un'esistenza di sofferenze, alleviate soltanto da occasionali e fugaci periodi di tregua che può conquistare unicamente a spese di qualche femmina. Il maschio è per natura una sanguisuga, un parassita delle emozioni e quindi, eticamente parlando, la sua vita non si giustifica, già che nessuno ha il diritto di vivere a spese di qualcun altro. Come gli esseri umani hanno priorità di vita rispetto ai cani, in virtù della loro più alta evoluzione e della superiore coscienza di sé, così le donne hanno priorità di vita sugli uomini. L'eliminazione del maschio è dunque un atto legittimo e buono, un atto altamente benefico per le donne ed è al contempo un atto di peccato. E comunque, questa considerazione morale diventerà puramente accademica, già che il maschio si sta gradualmente autoeliminando. Oltre ad impegnarsi nelle classiche guerre venerande e nei conflitti razziali, un numero sempre più grande di uomini diventano froci. Oppure si annullano nella droga. La femmina, volente o nolente, finirà per assumersi tutto il carico del mondo per il semplice motivo che non potrà più farne a meno. Il maschio, a tutti gli effetti, non esisterà più. Questo processo è accelerato dal fatto che un numero sempre maggiore di maschi stanno acquisendo un illuminato interesse per se stessi. Hanno capito che l'interesse della femmina è il loro stesso interesse, che loro possono vivere solo tramite la femmina e che quanto più la femmina è incoraggiata a vivere, a realizzarsi, a essere femmina e non maschio, tanto più loro si avvicinano alla vita. Il frocio accetta la sua natura maschile, ovvero la sua passività e la sua totale sessualità, che lui chiama femminilità, ed è ben contento che le donne siano delle vere femmine. Così per lui sarà più facile essere un vero maschio femminile. Se gli uomini fossero saggi, cercherebbero di diventare femmine autentiche, farebbero intense ricerche biologiche per trasformare l'uomo in donna, psiche e corpo, mediante operazioni al cervello e al sistema nervoso. Anche il problema di continuare ad usare le femmine per la riproduzione o optare invece per la riproduzione artificiale diventerà puramente accademico. Cosa accadrà ora che non ci sono più gravidanze non programmate? Quante donne decideranno deliberatamente di rimanere incinte? No, Virginia, non è vero che le donne adorano essere delle giumente. Malgrado tutto quello che dice la massa delle donne robot che hanno subito il lavaggio del cervello, bisognerà costringere un certo numero di donne a fare le giumente nell'interesse della specie? Ovviamente no. La soluzione è produrre bambini in provetta. Quanto al problema se continuare a riprodurre maschi, non è detto che il maschio debba continuare ad esistere solo perché, come le malattie, è sempre esistito. Quando sarà possibile il controllo genetico, e lo sarà presto, va da sé che dovremo produrre solo esseri completi, integri, senza difetti fisici o carenze, comprese le carenze emotive come la mascolinità. La produzione deliberata di ciechi sarebbe immorale, come lo sarebbe la produzione deliberata di esseri emotivamente storti. Ma sarà poi il caso di produrre le femmine? Perché dovrebbero esserci generazioni future? A che scopo? Una volta eliminate vecchiaia e morte, perché continuare a riprodursi? E quando anche non venissero eliminate, perché riprodursi? Che ci importa? Una volta che siamo morti di quello che accadrà, che ci importa se ci siano o non ci siano giovani generazioni a succederci? Il corso naturale degli eventi, l'evoluzione sociale, porteranno probabilmente al dominio totale delle femmine, poi alla cessazione della produzione di maschi e da ultimo alla cessazione della produzione di femmine. Allora, grazie a Greta, e questo era appunto un incipit, un modo di introdurre a questa figura, questo grande personaggio che è Valerie Solanas, e in questo caso Scam, come sappiamo, come abbiamo sentito anche stamattina, Solanas non avrà prodotto nel tempo solo Scam, ma partiamo da questo. E diciamo che il mio intervento è un po' più sentimentale, poi l'intervento di Margherita sarà più puntuale su altro e quello che è il nostro progetto. Dico perché sentimentale? Perché ho incontrato Valerie Solanas, ho incontrato, non fisicamente ovviamente, peccato, ma attraverso Scam, la traduzione che c'era, che era questa che è circolata in Italia alla fine degli anni 70 e in quel periodo io la ebbi in mano e ho letto questo libro, questa opera, questa che la stessa Valerie Solanas definì un'opera d'arte. Ed è così, l'avete sentito dai due pezzi che ci ha recitato Greta. Che cosa ha significato per me? Per me è stata una folgorazione quando l'ho incontrata. E ho letto e riletto questo testo più volte e tutte le volte mi sono emozionata, tutte le volte mi sono appassionata e mi sono fatta delle domande: perché mi emoziona ancora oggi sentirlo recitare o leggerlo o pensarlo, e che cosa mi emoziona, che cosa mi appassiona? Ovviamente sono tanti gli spunti, tante le cose, ma il primo impulso, quello che prima di tutto mi viene, è l'aspetto dell'utopia, è l'aspetto dell'immaginazione, è la folgorazione del dire l'indicibile, che è quello che noi donne non facciamo mai, è quello che è quella sorta di mutilazione alla quale ci sottoponiamo, ed è una mutilazione della parola, del pensiero e dell'agire. E invece quello che mi sorprende, mi ha sempre sorpreso di Scam, e le compagne del mio percorso, qui ce ne sono, ve lo possono dire, io fino alla nausea ho chiesto alle mie amiche e alle mie compagne di condividere le sensazioni e le emozioni che questo testo dà, è proprio questo aspetto del grido, del dire, dell'indicibile, di quello che appunto non si potrebbe, che invece gli uomini fanno, no? E le donne subiscono, ma le donne non possono ribaltare. E invece è proprio ribaltare la realtà, e quindi il pensare l'impensabile. Ecco, questo è il sogno, questa è l'utopia, e questa è la grande fascinazione per me. Ai tempi ero molto giovane, adesso sono più datata. Ovviamente la fascinazione cambia nel tempo, cioè la folgorazione della prima lettura non è certo l'emozione che mi dà adesso il rileggere o il sentire, ma è comunque qualcosa di estremamente appassionante, perché è una cosa che si muove dentro, e muove dentro qualcosa, e muove me verso, direi adesso, le mie simili, cioè le altre donne. Comunque mi muove verso le persone che io scelgo come amiche, come compagne, come amanti nella mia vita. Chi è Valerie Solanas? Perché anche questo è interessante, no? Valerie Solanas intanto è una scrittrice, perché non ha scritto appunto, come dicevo prima, solo Scam, ma ha scritto altre cose, ma soprattutto è una donna colta, una donna laureata, è psicologa e che vive, che ha un vissuto di abusi alle spalle e quindi con una vita difficile, con un inizio vita difficile, e che però vive nella New York degli anni 60, quindi nel village e in tutti questi ambienti dell'underground, comunque dell'alternativo, eccetera. E che è quell'alternativo, tanto alternativo come poteva essere negli anni 60, ma che evidentemente per Valerie non era abbastanza alternativo. Una figura che mi viene, che a me mi ricorda e che mi fa sovrapporre a Valerie Solanas è Virginia Woolf, un'altra grande, no? Ideatrice, un'altra grande sognatrice. Quindi noi abbiamo delle, posso dire madri, comunque delle donne che ci possono ispirare, che sono delle grandissime sognatrici e alle quali forse noi ci possiamo riferire, certo per prendere parola, come ha fatto lei. E che per vivere ha fatto di tutto, ha pubblicato, ciclostilava il suo Scam, lo vendeva al village in giro, nelle librerie alternative, e per vivere faceva di tutto, compreso prostituirsi, perché lei era per l'antisesso. Poi chi leggerà Scam capirà anche perché, dice, e dalle cose che diceva prima, che recitava Greta, già si capisce, no? Allora, un bel giorno lei diventa famosa perché spara Andy Warhol e va bene, questo è un fatto. Ma il linguaggio che utilizza in Scam è un linguaggio, e anche qui, cioè non è nella recitazione, no? Quello che ci colpisce è l'aspetto, posso dire questa cosa, della scurrilità, che ci sembra un linguaggio pesante, forte, aggressivo, sì. Questo è un elemento, però era anche una grande ricerca, perché quello che lei non voleva era non usare il linguaggio, tra virgolette, colto, o il linguaggio, tra virgolette, corretto, giusto, del potere patriarcale, no? E quindi era necessario costruire un altro linguaggio, e lei ha scelto questo tipo di linguaggio, che era il linguaggio, appunto, underground, degli artisti, degli allucinogeni, della prostituzione, però era una sperimentazione che lei faceva, no? E dirà di se stessa in tribunale: per quanto mi riguarda sono un'agitatrice sociale, questo riportato dal New York Times del 14 giugno del 68. Lei rifiutò durante i processi anche spesso gli avvocati che gli venivano dati, eccetera. E l'altro elemento è che il suo comportamento, che ha avuto diciamo la punta massima, l'acme, nello sparare Andy Warhol, ha provocato anche la spaccatura all'interno del movimento femminista di allora, che era il movimento Il Now, e per cui l'organizzazione si spaccherà e si dividerà in due tronconi, diciamo uno che si distacca da lei e prende le distanze, un altro invece che la sosterrà. Ma Solanas non è contenta di niente, lei è una fuorilegge, si mette al di fuori di tutta una serie di cose, anche del movimento dal quale poi non nel quale non si riconosce, perché si sentirà comunque ideologizzata, quindi presa come misura comunque per un discorso che non le appartiene, un altro discorso. E infatti lei dirà delle femministe che non hanno capito niente, io ho fatto un'opera d'arte, e questa è l'opera d'arte, io personalmente sono molto d'accordo. Quindi, dopodiché, per 3 anni si ritrova tra prigione, e ospedali psichiatrici, e poi esce dalla scena, cioè entra in un silenzio, entra in quella che potremmo definire l'assenza, che è l'assenza sulla scena delle donne. Quindi è un essere dentro il discorso delle donne fino in fondo. Quindi, che dire, un paio di ultime considerazioni, e poi passerei la parola a Margherita e al progetto. è che Scam, è un tentativo di ridefinire il contratto sociale, di ridefinirlo a vantaggio delle donne e quindi di cambiare l'ordine del discorso in una maniera veramente significativa, in una maniera veramente totale. E siccome l'uomo, come sentivamo prima dalla recitazione su Scam da parte di Greta, l'uomo è tarato, spetta alle donne Scam di prendere in mano la situazione e di cambiare le cose e cambiare, quindi dare un nuovo ordine di valori. E quindi dal momento che però la donna viene criminalizzata appena esce dai ruoli predefiniti, tanto vale assumersi questo aspetto di criminalità e farne un'arma, utilizzarla, no? E diventare fuori legge, così come ha fatto Valérie. Valérie Solanas è vissuta ai margini e questa marginalità l'ha portata al massimo della propria espressione, almeno dal mio punto di vista. Quindi Scam rivela il meccanismo del sessismo, che è una mostruosità della nostra società ancora oggi, e qui è l'attualità di Scam e di tutta la produzione di Solanas. E con questo, con il mio sentimentalismo, passerei la parola. Grazie, se mi sentite è acceso. In effetti, quando ho pensato, poi mi stavo chiedendo come chiamare questo bando, diciamo, lo pensavo in italiano antico, questa call for paper. La cosa che mi è venuta in mente e poi mi ha convinto, la cosa che mi è rimasta è stata Solanas Mon Amour, e mi è venuta in mente proprio dopo aver parlato con Lucilla, ma anche con altre donne, perché mi sono resa conto che Solanas è amata, cioè c'era un afflato, un sentimento, una passione. Che Solanas Mon Amour non era solo un titolo che non va tradotto, perché noi questo bando lo faremo girare in tutto il mondo, anche sulla Luna, quindi volevamo un titolo che non dovesse essere tradotto in un'altra lingua, che potesse essere letto in tutte le lingue. Io penso che anche a Shanghai Solanas Mon Amour lo capiscono. Ma vuol dire, cioè, è attinente, perché Solanas è questo, è amata, suscita questi sentimenti. Noi chi siamo noi? Il dito e la luna, cioè io mi presento qui, Francesca Podo è timida, sta sopra nel suo stand, è lì indefessamente dall'inizio di questa manifestazione, ci resterà fino all'ultimo minuto, c'ha tutti i nostri libri, dico nostri perché molti sono anche creature mie, e quindi noi come casa editrice lanciamo questo bando, che vuole stimolare nelle persone che lo recepiscono il desiderio di lasciarsi ispirare da Valérie Solanas, di fare qualche cosa che sia, non abbiamo voluto precisare. Io sono parziale verso i linguaggi narrativi, verso la fiction, ma comunque qualunque cosa, qualunque tipo di linguaggio che possa dar luogo a scrittura. Poi qualcuno mi ha detto, ma se io faccio un video? Ho detto, vabbè, non possiamo pubblicare un video, non siamo una casa distributrice, ma chissà, se qualunque cosa venga prodotta poi si troverà il modo di fruirla. Mi premeva parlare di Solanas, come l'hai già detto tu, ma come una scrittrice, come un'artista, leggendo la sua biografia, ma anche leggendo questo testo. Noi sappiamo che è una scrittrice. Lei si definiva così, voleva essere considerata così, ma noi non saremmo qui a parlare di Scam oggi se non fosse un testo che possiede tutta la complessità di un'opera artistica. È un testo che è molto lucido, molto composito, nello stesso tempo molto fuorviante, ci sbalestra continuamente, no, nel suo pensiero, che agisce a tanti livelli, che ci dice tante cose che ci stimolano e ci scuotono, che contiene molte contraddizioni. E scoprire queste contraddizioni è una cosa estremamente stimolante. Mentre la teoria sopporta difficilmente la contraddizione, cioè cerca comunque di costruire dei sistemi coerenti, la fiction, la narrativa, l'arte, no, l'arte vive di contraddizioni. Ed è questa la cosa più meravigliosa. La contraddizione che mi colpisce di più rispetto a lei è proprio quella della sua vita, questo suo vivere, porsi costantemente al margine, nello stesso tempo voler diventare una grande artista riconosciuta. Cioè questa contraddizione tra l'essere fuori, nel luogo che non è, che è un non luogo, il luogo per esempio che diventa il palcoscenico della sua commedia, il marciapiede, e però volere anche essere appunto riconosciuta, far rappresentare la sua commedia, far pubblicare il suo libro, questo suo meraviglioso delirio, guadagnerò 50 milioni di dollari pubblicando Scam, questo parlare insomma, del grande successo. Le due cose convivono completamente ed è una cosa che è possibile solamente nell'opera d'arte, altrimenti se non è un'opera d'arte diventa ridicola e la si dimentica rapidamente. Il margine, dicevo, adesso vi parlerò un attimo del dito e la luna, perché noi abbiamo lavorato su scrittrici che si ponevano al margine, che dal margine hanno parlato, e ho portato qui tre libri che lo dimostrano, che sono Trash di Dorothy Allison, Sorella Outsider di Audre Lorde e Stone Butch Blues di Leslie Feinberg. Sono libri che sono stati pubblicati in momenti diversi da noi, insomma, che rappresentano, sono completamente storie dal margine. Prendiamo Dorothy Allison, che adesso, con mia mista soddisfazione, perché è stata finalmente pubblicato il suo libro più famoso, dico mista soddisfazione perché volevo farlo io e non ci sono arrivata, scusate, cioè mi hanno battuta, meglio per lei, l'ha fatto un editore più grande, il suo libro più importante che è Bastard Out of Carolina, ma noi abbiamo fatto 12 anni fa Trash, che è un libro meraviglioso. Dorothy Allison poteva essere, come dire, Dorothy Allison e Solana sono comparabilissime, nascono a pochi anni di distanza l'una dall'altra, Dorothy Allison un po' più giovane, e vengono da famiglie povere e da una storie durissime di abusi nell'infanzia. Sono due donne eccezionalmente intelligenti che si fanno strada nella scuola, cioè che riescono a entrare nel sistema scolastico americano, solo che Solana ha dei brevi momenti di quasi inserimento e poi costantemente devia verso la marginalità, mentre Allison diventa una scrittrice calda, diventa una scrittrice famosa, una donna che vive insegnando scrittura, si conquista in modo molto anche doloroso un posto in questo sistema con cui è in perenne conflitto. Questo non fa di lei una voce meno marginale. Le stesse cose possiamo dirle delle altre scrittrici. Vi faccio anche notare un momento di pubblicità: noi siamo usciti con questi due libri, adesso sono freschi, fatti apposta per arrivare qua, che sono una raccolta di saggi di Marie-Jo Bonnet che si chiama Desiderio e libertà, questioni di politica femminista e lesbica, e una riedizione di un'americana a Parigi di una tale Eleanor Rigby, che nel frattempo l'ha riscritto completamente. Nel frattempo loro invece sono uscite con questo libro che è quello di cui stiamo parlando adesso, cioè stiamo parlando di Valerie Solanas, che raccoglie tutti i suoi scritti, ed è un'operazione filologicamente, che hanno fatto appunto Stefania Arcara e De Bonardilli, è un'operazione filologicamente bellissima perché c'è il testo inglese, c'è il testo italiano, ci sono le loro prefazioni, c'è un apparato critico, c'è una bibliografia, c'è tutta una serie di cose molto molto belle. Di Solanas come artista mi premeva dire, mi preme parlarne un attimo perché si parla di lei, della sua vita sciagurata, no? Che forse lei ci sembra più sciagurata a noi di quanto la vivesse lei come tale, ci spaventa perché sicuramente una vita tale come la sua, ma noi dobbiamo tenere presente che noi qui siamo tutte figlie di papà. Lei così ci avrebbe definito e avrebbe avuto ragione, e dal suo punto di vista perfettamente. lei, appunto, come si diceva, parla dal margine e dice delle cose molto forti, molto impopolari, cose, è stata paragonata però a degli altri scrittori, cioè tutti uomini, cose che magari se le avesse dette, è stata paragonata a Céline, a Genet, a De Sade. Pensiamo a uno come De Sade, che ha detto delle robe terrificanti e che viene considerato una specie di classico, magari maledetto, ma un classico. Mentre Solana si è sul Fure ancora adesso, no? È ancora adesso rimasta, ha avuto il privilegio di abitare quella zona marginale che lei si era scelta. È stata paragonata a Swift, alla modesta proposta di Swift, quella di mangiare i bambini dei poveri, dar la caccia ai bambini dei poveri, così per risolvere vari problemi sociali. Io personalmente non riesco a non vedere un parallelo fra lei e Carla Lonzi, a vedere una serie di affinità, cioè, mentre un grande bersaglio polemico di Solanas è l'arte, e capiamo perché lei in quanto artista si sente negata. E in Italia abbiamo Carla Lonzi, che è una affermata, promettente critica d'arte, che esce completamente da questo mondo e possiamo dire si tira fuori, forse sarebbe il caso di usare l'espressione che ha usato Solanas, dropping out, ma si tira fuori in un mondo altro, che è quello dei rapporti fra donne, del femminismo, in cui il privato è politico, è un privato che però diventa tutto la sua, cioè diventa un altro mondo, diventa il mondo politico delle donne. Solanas non fa questo, Solanas non possiede una vita privata, c'è una frase verso la fine della commedia in cui la personaggio le dice: ma tu com'è la tua vita privata, che cosa? E lei dice: io non ce l'ho una vita privata, ed è probabilmente la cosa più, per me, la cosa più sconvolgente della sua scelta, della sua persona. E infatti la commedia si svolge su un marciapiede, su un luogo dove la gente passa costantemente, no? Per la strada. Io devo dire che il progetto Solanas nasce, non è che nasce così all'improvviso, poi sono felice che sia successo tutto questo. Questo è l'anno di Solanas, non credo soltanto perché sono passati, cioè il cinquantenario del suo gesto più famoso, no? Cioè appunto la famosa sparatoria a Andy Warhol, che appunto fu il 3 di giugno del 2000, cioè del 1968, quindi sono 50 anni. Non credo che sia solo per quello. Credo che ci sia, come sempre, un insieme di energie, di forze che spuntano da una parte dall'altra e che convergono su certi obiettivi. In questo momento abbiamo varie edizioni di Scam, nel mio studio ho un libro di Sara Stridsberg, che è una scrittrice svedese, ce l'ho lì da anni e l'ho letto due volte, forse tre, perché poi lo leggevo un po' a pezzi, insomma è un libro che ho letto e riletto e che sognavo da tempo di fare, poi come insomma, anche perché era in svedese, io l'ho letto in francese, quindi diciamo c'era anche un problema linguistico. Sara Stridsberg ha dedicato a Valerie Solanas un romanzo che si chiama La facoltà del sogno, che mi ha colpito sempre questo titolo, perché non so se Solanas, non l'avrei mai scelto io per Solanas, comunque. È un libro estremamente interessante e importante, che per me è stato importante anche in altre cose, è stato importante nel modo in cui ho affrontato la tematica biografica in altri miei scritti, prendendomi la libertà di romanzare su qualcosa che era vero e qualcuno che era veramente esistito. Stridsberg l'ha fatto in maniera molto intensa, ha usato questa libertà, anche perché la vita di Solanas è stato scritto prima della biografia uscita 4 anni fa di Brian Fass, lei l'ha scritto negli anni prima del 2010, quindi non si conoscevano alcuni elementi che adesso conosciamo. E quindi ha creato questo personaggio di romanzo e le ha affiancato se stessa, la scrittrice figlia di papà, perché naturalmente lei come scrittrice inquadrata, integrata, eccetera, che ama Solanas, di nuovo una storia d'amore, la segue, la incontra, comincia a questa storia è scandita dal passare dei giorni, poi c'è una serie di flashback, va avanti e indietro nel tempo, è scandita nell'ultimo mese di vita di Solanas in questo albergo del Tenderloin di San Francisco in cui lei morirà sola. E c'è tutta una serie di dialoghi impossibili fra la scrittrice figlia di papà e il personaggio Solanas. E una delle frasi che il personaggio Solanas dice più volte, che è estremamente interessante, un po' una frase emblematica, è: ricordati che io sono la sola donna qui che non sia pazza. E quindi che coglie un elemento fondamentale, che è l'enorme solitudine di Solanas, e che coglie come la sua arte, la sua vita sia fatta di visione. Lei vede delle cose che le altre donne si impediscono di vedere. E qual è il legame fra la scrittrice figlia di papà, questo legame d'amore, e questa disperata, insopportabile, perché deve essere insopportabile, tu hai detto non l'ho conosciuta, per fortuna, io dico ma meno male, perché non credo che l'avrei sopportata, forse mi avrebbe sparato, forse, cioè era una persona molto difficile, certo. Io così ho elementi per pensare che fosse così. Del resto non è importante, una scrittrice sa benissimo che la vera essenza di sé è in quello che scrive, il meglio di sé è in quello che scrive. E quindi è su questo terreno che io vi propongo di andare a incontrarla. Qual è il legame, no? Perché la scrittrice figlia di papà, che tutto sommato sa di essere lontanissima da questa realtà, che cosa la unisce a Solanas la fuorilegge, Solanas la ribelle, la criminale, la disperata? Un profondo amore, come se ci fosse come se fossero quasi due parti della stessa persona. E io ho pensato che in effetti era questo che volevo proporre a chi raccoglierà questa sfida, di lavorare proprio su questo, di dare voce alla Valerie Solanas che è dentro di noi, dentro ciascuna di noi. Dentro ciascuna di noi c'è una donna ribelle che dice delle cose che non si possono dire, che probabilmente si intrattiene in furiosi monologhi, lei parlava moltissimo, una logorroica, che disfa e rifà il mondo e che compie azioni improponibili, inguardabili e terribili. E senza questa donna non credo che noi riusciremmo a vivere, cadremmo in uno stato che quello che lei definisce del maschio, che è privo della sua reale energia creativa. Io non voglio discutere se lei, il modo in cui lei parla, sia un rovesciamento, diciamo, voglia rovesciare la visione maschile e femminile, non mi interessa questo tipo di visione, cioè, voglio dire, può essere interessantissima, ma lascio, diciamo, alle critiche le interpretazioni. Io volevo pormi più sul piano della ispirazione, della suggestione. Ispirazione, suggestione, e questa è la parola che propongo. Quindi questo bando, adesso io vi leggerò brevemente il testo, cioè non sto a ripetere quello che abbiamo già detto, cioè sono due parole su di lei, leggo solo. Scam Manifesto è stato in questi 50 anni scoperto e riscoperto, criticato, amato e sofferto da donne di ogni parte del mondo e anche da uomini. Teniamo presente che gli uomini non se ne fanno, cioè non tutti gli uomini se ne fanno spaventare. Lei ha avuto amici maschi, ha avuto uomini che la sostenevano e la ritenevano una rivoluzionaria. Qualcuno ha cercato di adattare la sua autrice a schemi teorici che non erano suoi, ma soprattutto Scam Manifesto ha ispirato scrittrici, attrici, artiste e registe. Scam Manifesto si muove, secondo me, su un terreno che non è quello della teoria, ma dell'arte, in cui molteplici e contraddittori livelli di lettura del reale non sono soltanto possibili, ma necessari, in cui la parola è lampo che illumina e spaventa, non griglia che sostiene e ingabbia. Noi riteniamo che il pensiero lucidamente radicale, la sfida artistica e lo humor ribaldo di Solanas abbiano ancora molto da dirci e che possano aiutarci a stracciare i molti veli delle illusioni e menzogne per lasciarci intravedere il reale. Perciò rivolgiamo questa call for papers a chiunque voglia lasciarsi ispirare da uno o più aspetti del lavoro di Solanas. Intravedere il reale è una cosa che richiede, come sa bene Lacan anche qui presente, un lavoro psicoanalitico molto lungo spesso. Intravedere il reale è molto difficile. E quindi diciamo è una vera sfida quella che vi propongo, e io spero che ci siano delle donne disponibili a raccoglierla, perché noi poi pubblicheremo, cioè, mandateci questi testi. Ci sono le cartoline che distribuito in giro e che chi vuole le può prendere, ancora sono qui. La forma non saggistica, narrativa, teatro, fumetti, commedie, insomma qualunque cosa. Lettere, why not? Canzoni, ecco, non l'abbiamo messo, ma insomma vale lo stesso. Questo è il messaggio che volevo trasmettere, che volevamo trasmettere. Parlo anche a nome di, non parlo con Plurale Maestatis, ma a nome di mio e di Francesca Polo. Ecco, tutto qui. E io, se ci sono delle domande, delle cose che ci volete dire, se ci sono delle suggestioni, eccetera, possiamo parlare, appunto. E l'altra proposta che volevamo fare è, volevamo chiedere a Greta, perché Greta, quello di Greta è uno spettacolo vero e proprio che lei fa, che si chiama Box, appunto, che lei, ci sono delle frasi e ciascuna persona che assiste allo spettacolo preleva una frase e Greta parte, e tra queste parti ci sono anche degli intermezzi ispiratissimi che Greta ha scritto, che sono farina del suo sacco e che riguardano quello che la lettura di Scam, che il lavoro su Scam le ha suggerito, le ha suggestionato, come la suggestione che ha provato, insomma. Quindi scegliete anche voi, insomma, che cosa vi farebbe piacere. Ci fa sentire adesso uno dei suoi pezzi. Vai, Greta. Vorrei dire anche una cosa, probabilmente sì, mi prenderebbe a calci nel culo se fosse viva, perché sono una figlia di papà anch'io, privilegiata e istruita del ceto medio. Questo è un fuoriservizio, quindi immaginate, appunto, come ha detto Lucilla, le persone scelgono delle tracce, io attacco il manifesto da alcuni punti e poi a un certo punto si rompe il jukebox, questa specie di jukebox umano. Che c'è? Sei inceppata un'altra volta? Ah, andiamo bene. E vabbè, aspettiamo che ricomincia. A me tutto sto biascicate maschi mi ha fatto ricordare il primo ragazzo che ci ho avuto. Capirai, 200 anni fa. Non gli stava mai bene niente, però sempre appiccicato ce l'avevo. E come ti sei vestita? E come gli hai parlato a quello? E chi c'è stava l'altra sera? E come mai te sei pettinata? Un'agonia del sospetto, de gelosia. Qualche volta per dispetto mi diceva pure: ma non sarai un po' mignò? E si fermava. Non finiva mai la frase, vigliacco. Ma senti, senti. La cosa curiosa per me, che capirai, allora c'avevo 17 anni, è che quando lui faceva lo stronzo, a me mi s'alzava tutto un fuoco, tutto nella pancia, nelle viscere, una cosa mai sentita. E io, scema, una ragazzina, pensavo che sto fuoco era quello della passione, la famigerata passione d'amore. E mi spaventavo di me stessa, perché pensavo, ma com'è che a me sto fuoco me brucia quando questo fa lo stronzo? Vero è che a ripensarci lui faceva sempre lo stronzo, ma vabbè. E mi sentivo strana, vent'anni, come cantava la sorella. Capisco che quello non era il fuoco de passione. Era l'incazzatura! Da Lecce vicino, un cretino increstato come un gallo, uno che te intossica e te rimbambisce de chiacchiere, de sospetti, de paure, che non te lascia mai manco lo spazio per pensare. Tu, da sola, ai fatti tuoi, alle cazzate, a come gira il mondo, a come stanno l'altri e che stanno a fare. Niente. A 17 anni io volevo bruciare d'amore e niente. Non lo capivo che quella era una sacra fiamma di ribellione, una voglia di libertà. Come dici? Delle emozioni. Delle emozioni a casa e a scuola. Ci hanno fatto capire subito che non ci potevamo fidare per combinare qualcosa in questa vita. No, ma che me viene a dire le emozioni. A 17 anni io volevo fare l'amore e sapevo solo questo. La prima che parteciperà alla nostra Call for Papers, perché ha già il materiale, ha già tutto. Sì. Sì, sì. Il problema è che deve essere solo paper, non può essere altro. Abbiamo detto anche fumetti. Meraviglioso anche se producete qualcos'altro. Noi come editrici i nostri mezzi sono limitati, ancora non ci siamo lanciati in una casa di produzione, però non si sa mai. Ma tu dicevi immagini, per esempio, sì, perché no? Ha parlato di fumetti prima lei, no? Disegni, fumetti. Sì, beh, è sempre una cosa che si può mettere sulla carta. Sì, che si può mettere sulla carta però. Se qualcuno vuole dire qualcosa, se qualcuno già ha qualche idea immediatamente, vuole raccontarcela, già vuole condividerla. Noi siamo qua. Beh, che tempi ci sono per una raccolta? 31 dicembre. Ah, quindi è lungo, è un tempo lungo, 31 dicembre, sì. Sì, per esempio dialogherei con lei, mi è venuto in mente, ma io non posso adesso, dialogherei con lei perché ci sono tante cose, cioè, sulle quali, come dire, sono su posizioni anche molto diverse, no? Che però mi stimola molto quello che lei dice, no? Certo. Penso che lei che sia una... interpretarlo anche in questo senso qua, insomma. E questo è un elemento sicuro. Prenderla sul serio come artista, come scrittrice. Questa è la sfida che, a cui il mondo ufficiale non ha mai risposto. E che, come dicevano anche stamattina, è il momento di rendere giustizia a questo grande personaggio che è stata Solanas, insomma, che ha pagato a caro prezzo questo essere... un outsider e una fuorilegge, fuori legge intesa fuori della norma sancita da qualcun altro, no? Quindi fuori dai canoni. E hanno già aperto per richiamarci all'ordine, che l'altro c'è un'altra cosa dopo di noi, e però noi volevamo dirvi che qua dietro abbiamo Scambio Manifesto, l'originale. L'originale che Valerie Solanas spedì a Edda Billi, una nostra amica e compagna storica, e che adesso diventerà patrimonio della casa e di Archivia. E quindi, se ve lo volete vedere da vicino, questo è l'originale autografato da Solanas e spedito ad Edda Billi. Ok. Grazie. siamo state bene nei tempi, perché ha aperto la porta. Sì, ma no, eravamo programmati. Prendo.